Due minuti più tardi, sulla terrazza dell'albergo. Oh, it's wonderful! Il panorama è... Meraviglioso! Vero? Sì, meraviglioso! Ecco il menù e la carta dei vini. Grazie. Allora, che cosa vuole mangiare? Un antipasto? What do you recommend? Dunque, un antipasto toscano, naturalmente. Non è vegetariana, vero? Vegetarian? Oh, no, non sono vegetariana. Perché? Perché c'è il prosciutto, il salame, la finocchiona, that is pork. Why not? Vogliono ordinare? Non siamo ancora pronti. Oh, would you order for me? Va bene. Allora, ordiniamo. Benissimo, mi dica. Allora, due antipasti toscani, poi due penne all'arrabbiata. Le piace il cibo piccante? Do I like spicy food? Sì. Yes, I do. Allora sì, prendiamo due penne all'arrabbiata. Bene. E di secondo? Di secondo... Oh, sorry, I think two courses are enough for me. Ma è sicura? Insalata mista? No, grazie. I'll be fine. Va bene. Allora, non prendiamo il secondo. Per me, del formaggio pecorino. Del formaggio pecorino. Bene. E da bere? Del vino, naturalmente. Del vino rosso. Abbiamo un ottimo Chianti. Benissimo. E una bottiglia d'acqua. Naturale o gasata? Naturale per me, per favore. Naturale, per favore. Ecco gli antipasti. Buon appetito. Grazie. Grazie. Looks beautiful. And it's a huge portion. No, è una porzione normale. Allora, buon appetito. Buon appetito. Allora, le piacciono le penne? Oh, yes. Buonissimo. Buonissime. Ok, buonissime. Oh. I am full. I've never eaten so much in my life. E non abbiamo preso il secondo. Vuole un dolce? Un tiramisù? Tiramisù. That would be nice, but I can't. No, grazie. Un caffè, allora? Sì, un caffè. Scusi? Mi dica. Due caffè, per favore. Due caffè, subito. Ecco i caffè. Grazie. But it's an espresso. Naturalmente. In Italia, caffè significa un espresso senza latte. Vuole del latte? Oh, sì, grazie. Allora, bisogna ordinare un caffè macchiato. An espresso with a drop of milk. Ok, un caffè macchiato, per favore. Subito, signorina. Ah, è tardi. E lei è stanca, vero? Sì, stanchissima. Scusi? Signore? Il conto, per favore. Subito. Camera 47, giusto? Sì, ma pago subito con carta di credito. Ecco. No, Lorenzo, you're not going to pay. Naturalmente. Lei è mia ospite.